Ad alta voce, Maria Paiato legge Amatissima di Toni Morrison. Traduzione di Giuseppe Natale. A bitter man, get a man, bitter man. A bitter man, get a man, bitter man. A bitter man, get a man, bitter man. Yes. A bitter man, get a man, bitter man. Seth aspettò un anno e gli uomini di Sweet Home, mentre aspettavano assieme a lei, si facevano le mucche. Seth scelse Hall e per la loro prima notte si cucì un vestito di nascosto. Non vuoi fermarti un po'? Come si fa a recuperare 18 anni in un giorno? Nella penombra della stanza dove sedevano si scorgeva una scala bianca che portava al secondo piano con la sua carta da parati bianca e azzurra. Paul D ne riusciva a vedere solo l'inizio, delle macchioline discrete di giallo spruzzate nel bel mezzo di un turbinio di bucaneve, il tutto su sfondo azzurro. Il bianco luminoso della ringhiera e degli scalini attirava continuamente la sua attenzione. Tutti i sensi gli dicevano che l'aria sopra le scale era leggerissima e incantevole. Da quell'aria discese però una ragazza rotondetta e scura, con un volto da bambola allerta. Paul D guardò prima la ragazza e poi Seth, la quale sorrise dicendo: «Eccola qui, la mia Denver. Tesoro, questo è Paul D, uno di Sweet Home. Buongiorno, Mr. D. Garner, piccola. Paul D. Garner. Sì, signore. Sono contento di conoscerti. L'ultima volta che ho visto tua madre, eri lì che sporgevi dal suo vestito. Lo fa ancora adesso», disse Seth sorridendo, «sempre che riesca a infilarsi dentro». Denver stava sull'ultimo scalino quando, presa dalla timidezza, all'improvviso avvampò. Era passato molto tempo dall'ultima volta che qualcuno si era seduto al loro tavolo. Zelanti donne bianche, predicatori, oratori e giornalisti, le voci comprensive tradite dalla repulsione che si leggeva negli occhi. Per 12 anni, assai prima che nonna Baby morisse, non c'erano più stati visitatori di sorta, né tantomeno amici. Niente persone di colore, di sicuro niente uomini color nocciola dai capelli troppo lunghi. E niente taccuino, niente carbone, niente arance, niente domande. Ora c'era qualcuno con cui sua madre voleva chiacchierare e con cui era persino disposta a parlare scalza. Sembrava, o meglio, si comportava come una ragazzina e non come la donna posata, regale, che Denver aveva sempre conosciuto. Né lui né lei portavano le scarpe. Rossa in viso, triste. Ora Denver si sentiva sola. Tutti quegli abbandoni. Prima i fratelli, poi la nonna. Gravi perdite, poiché non c'erano bambini disposti a giocare con lei, a racchiuderla nel loro girotondo o ad appendersi con le gambe alla balaustra della veranda di casa sua. Niente di tutto quello aveva avuto importanza fin tanto che sua madre non aveva distolto lo sguardo da lei, come in quel momento, facendo sì che Denver desiderasse intensamente, con tutte le sue forze, che lo spirito della bambina si facesse vivo, mostrando il suo rancore. «È una donnina graziosa», disse Paul D. «Proprio graziosa. Ha il volto dolce di suo padre. Conosce mio padre?» «Lo conoscevo. Lo conoscevo bene». «È vero, signora?» Denver combatteva il bisogno di riallacciare il proprio affetto. «Certo che lo conosceva, il tuo papà. Te l'ho detto, è uno di Sweet Home». Denver si sedette sull'ultimo gradino delle scale. Non c'era nessun altro posto dove potersi rifugiare con un certo garbo. Erano lì, complici, a dire «il tuo papà, Sweet Home», in un modo dal quale traspariva chiaramente che era a loro che entrambi appartenevano e non a lei. E l'assenza del padre non la riguardava. Un tempo quell'assenza era stata di nonna Baby, un figlio compianto amaramente, poiché era stato lui a riscattarla. Poi era diventato il marito assente di sua madre. Ora era l'amico assente di questo forestiero color nocciola. Solo quelli che lo conoscevano, e lo conoscevano bene, potevano rivendicare la sua assenza, così come solo quelli che avevano vissuto a Sweet Home potevano farne menzione, parlarne in segreto e così facendo lanciarsi occhiate furtive. Si augurò nuovamente che comparisse lo spirito della bambina. La sua rabbia ora la eccitava, mentre di solito la sfiniva. La sfiniva. «Abbiamo uno spirito qui», disse Denver. La cosa funzionò. Non erano più complici. Sua madre smise di dondolare i piedi e di comportarsi come una ragazzina. Il ricordo di Sweet Home svanì dagli occhi di quell'uomo che la spingeva a comportarsi così. Lui alzò subito lo sguardo per osservare il bianco abbagliante delle scale dietro di lei. «Già, così sembra», rispose. «Ma non è maligno, però, m'ha detto tua mamma. È solo triste». «No, signore», rispose Denver. «Non è maligno, ma nemmeno triste». «E com'è allora?» «Si sente sgridato. Sgridato e solo». «È così?» chiese Paul D, voltandosi verso Seth. «Solo non saprei», rispose la madre di Denver. «Arrabbiato, forse, ma non vedo come possa sentirsi solo, visto che passa con noi ogni momento». «Forse vuole qualcosa che hai tu». Seth si strinse nelle spalle. «È solo una bambina». «Mia sorella», aggiunse Denver, «è morta in questa casa». Paul D si grattò i peli sotto la mascella. «Mi ricorda quella sposa senza testa che c'era una volta dietro Sweet Home. Ce l'hai presente, Seth? Aveva il vizio di andare sempre per i boschi. E come me la posso scordare? Era un'angoscia. Come mai tutti quelli scappati da Sweet Home ne parlano sempre? Se era così dolce, perché non ci siete rimasti? Ehi, ragazzina, ma con chi credi di parlare?» Paul D rise. «È vero, è vero. Ha ragione, Seth. Sweet Home non era dolce. E non era nemmeno una casa. Poco, ma sicuro», disse scuotendo il capo. «Però è lì che stavamo», disse Seth. «Tutti insieme. Se ne torna sempre a parlare, volenti o nolenti». Fu percorsa da un leggero brivido e si sentì accapponare la pelle. Si carezzò il braccio e la pelle d'oca scomparve. «Denver», disse, «accendi il fuoco. Per una volta che un amico passa di qua a trovarci, noi non gli diamo nemmeno da mangiare». «Ah, non datevi disturbo per me», disse Paul D. «Il pane non è un disturbo. Il resto l'ho preso dove lavoro. Il meno che posso fare dopo che cucino dal mattino alla sera è di portarmi la cena a casa. Ti va bene il Luccio?» «Se io vado bene a lui, lui va bene a me». «Ci risiamo», pensò Denver. Voltando la schiena ai due, si mise ad attizzare la legna e per poco non fece spegnere il fuoco. «Perché non passa la notte qui, Mr. Garner? Così potete parlare di Sweet Home tutta la notte». Seth raggiunse la stufa in un balzo, ma prima di riuscire a brancare Denver per il bavero, la ragazza si chinò in avanti e si mise a piangere. «Si può sapere che ti prende? Non t'ho mai visto fare così». «Lasciala stare», disse Paul D. «Per lei sono un estraneo». «Appunto, non ha motivo di fare tante scene con un estraneo». «Piccolina, che cosa c'è? T'è successo qualcosa?» Ma Denver ora singhiozzava tremando tutta e non riusciva a parlare. Le lacrime che non aveva versato per 9 anni ora le rigavano quei seni fin troppo cresciuti per la sua età. «Non ce la faccio più! Non ce la faccio più!» «Non ce la fai più? Che cosa non ce la fai più?» «Non ce la faccio più a vivere qui! Non so dove andare, non so che cosa fare! Non ci riesco più a vivere qui! Nessuno ci parla! Nessuno ci viene a trovare! Ai ragazzi non piaccio e alle ragazze nemmeno!» «Oh, tesoro, tesoro!» «Che cosa intende dire che nessuno vi parla?» chiese Paul D. «È la casa. La gente non...» «No, no, no, non è la casa. Siamo noi, sei tu, Denver. Lascia stare, Seth. Non è facile per una ragazzina vivere in una casa abitata dagli spiriti. Non deve essere facile per niente. È più facile di tante altre cose. Credimi, Seth. Sono adulto. Nella vita ho visto di tutto e ho fatto di tutto. E se ti dico che non è facile, è così. Forse è meglio se ve ne andate tutte e due. Di chi è questa casa?» Da sopra la spalla di Denver, Seth lanciò a Paul D uno sguardo gelido. «E a te che importa? Non vi lasciano andare via?» «No». «Seth, basta. Basta partire. Va bene così. E tu mi vieni a dire che va bene così quando c'è questa bambina che è mezza fuori di sé. Nella casa si preparava uno scontro. Nel misurato silenzio che fece seguito a quelle parole, Seth parlò. Ho un albero sulla schiena e uno spirito in casa. Nient'altro. Solo questa figlia che stringo tra le braccia. Basta fuggire. Da qualsiasi cosa. Non scapperò più, per niente al mondo. Ho fatto un viaggio e il biglietto l'ho pagato. Però ti dico una cosa, Paul D. Garner. Costa troppo. Mi hai sentito? Costa troppo. Adesso, se vuoi, siediti a mangiare con noi. E se no, lasciaci in pace. Evitando lo sguardo di lui, si diresse subito a un tavolino vicino alla stufa. Posò una scodella sul tavolo e allungò la mano per prendere la farina. Gli dava le spalle e così Paul D. poté osservarle tranquillamente i capelli senza essere distratto dal volto. «Che cos'è questa storia dell'albero che hai sulla schiena? Ti cresce qualcosa sulla schiena? Io non vedo niente. Eppure c'è. Chi te l'ha detto?» «La ragazza bianca. È così che l'ha chiamato. Io non l'ho mai visto e nemmeno voglio vederlo. Ma è così che sembrava, secondo lei. Un ciliegio selvatico. Il tronco, i rami e perfino le foglie. Delle foglioline di ciliegio. Ma questo è successo 18 anni fa. Per quello che ne so io, a quest'ora possono esserci pure le ciliegie.» Con la punta della lingua, Seth si inumidì il dito di saliva e poi rapida lo passò leggera sulla stufa. Quindi fece correre le dita nella farina, dividendola, separandola in montagnole e collinette, controllando se c'erano dei bachi. Non avendone trovati, si versò un po' di sale di bicarbonato nella mano a coppa e li rovesciò nella farina. Affondò la mano in un barattolo di latta e ne estrasse un mezzo pugno di lardo. Con destrezza vi fece passare la farina, poi, spruzzando dell'acqua con la sinistra, modellò la pasta. Aprì lo sportello del forno e vi fece scivolare dentro la teglia. Mentre si rialzava per allontanarsi dal calore del forno, sentì la presenza di Paul D. dietro di lei e s'accorse che le teneva le mani sotto i seni. Si raddrizzò del tutto, intuendo, anche se non la poteva sentire, che la guancia di lui premeva contro i rami del suo albero di ciliegio. Mentre era chinata, Paul D. stava teneramente ripiegato su di lei come un arco e le teneva i seni nei palmi delle mani. Strofinandole la guancia contro la schiena, veniva a conoscenza del suo dolore, del punto in cui esso aveva piantato le sue radici, del suo largo tronco e dell'intrico di rami. Andando su con le dita verso i ganci della veste, Paul D. sapeva, senza vedere, senza sentire alcun sospiro, che le lacrime le stavano sgorgando veloci. E quando la veste le scivolò fino all'altezza della vita, Paul D. poté vedere quella schiena trasformata in scultura, simile all'opera di un fabbro troppo passionale perché la si potesse esibire. E pensò, senza riuscire a esprimerlo, «Oddio! Oh no, ragazza mia!» E non avrebbe potuto aver pace finché non avesse sfiorato con la bocca ogni rilievo e ogni foglia di quell'albero. Seth, però, non sentì niente, poiché da anni ormai la pelle della sua schiena era insensibile. Sapeva solo che la responsabilità dei suoi seni, finalmente, riposava nelle mani di qualcun altro. «Ci sarebbe stato un po' di spazio», si chiedeva, «un po' di tempo, qualche modo di tenere a distanza tutti quegli avvenimenti, di accantonare tutto quell'affannarsi e potersene stare lì, un paio di minuti, nuda dalla scapola alla vita, liberata dal peso dei suoi seni a sentire la fragranza del pane nel forno. Forse, per una volta, avrebbe potuto finalmente permettersi di piantar lì il pranzo che stava preparando e senza doversi neppure allontanare dalla stufa sentire il male che doveva farle la schiena. Poteva di nuovo nutrire fiducia nelle cose e dimenticarne altre solo perché l'ultimo uomo di Sweet Home era lì a sorreggerla nel caso svenisse. A vibrare Non era la stufa che si stava riscaldando. Non era Denver che s'agitava nella stanza accanto. Il pulsare della luce rossa non era ricomparso e Paul D non aveva più tremato dal 1856, e allora gli era durato 83 giorni di fila. Ingabbiato e incatenato, le mani gli erano tremate al punto da non riuscire a fumare né a grattarsi come si doveva. Adesso tremava di nuovo, ma questa volta erano le gambe. Gli ci volle un po' prima di capire che il tremito alle gambe non era dovuto ai suoi affanni, ma alle vibrazioni delle assi del pavimento, e i cigolii e gli scossoni di tutto l'impiantito facevano parte di un movimento più generale. Era tutta la casa che beccheggiava. Seth, finita sul pavimento, cercava di rinfilarsi i vestiti, mentre era lì a terra, a quattro zampe, come se stesse tentando di tener ferma la casa. Denver si precipitò fuori dal soggiorno con lo sguardo terrorizzato e un vago sorriso sulle labbra. «Maledizione, piantala!» Paul D gridava. Cadeva, cercava un punto di appoggio. «Lascia in pace questo posto! Vattene al diavolo!» Un tavolo gli si avventò contro, ma lui lo afferrò per le gambe. Riuscì in qualche modo a mantenersi in posizione eretta e, tenendo il tavolo per due gambe, lo sbatté di qua e di là, fracassando tutto, urlando in risposta alle urla della casa. «Vuoi la rissa? Avanti, fatti sotto, maledizione! Ne ha già viste abbastanza anche senza di te! Ne ha già viste abbastanza!» A poco, la casa smise di tremare, a parte qualche occasionale rollio improvviso. Ma Paul D non cessò di far roteare il tavolo finché tutto non fu assolutamente immobile. Sudando e ansimando, si appoggiò alla parete nello spazio dove prima c'era la credenza. Seth stava ancora rannicchiata accanto alla stufa, stringendo al petto le scarpe che era riuscita a mettere in salvo. Tutti e tre, Seth, Denver e Paul D, respiravano allo stesso ritmo, come una sola persona affaticata. Ma c'era anche il respiro di qualcun altro, ed era altrettanto affaticato. Era passato. Denver, avvolta dal silenzio, si diresse verso la stufa, coprì il fuoco di cenere e tirò fuori dal forno la teglia di pagnotte. La credenza con le marmellate era rovesciata a terra, il suo contenuto giaceva ammucchiato in un angolo del ripiano inferiore. La ragazza prese un vasetto e, guardandosi attorno alla ricerca di un piatto, ne vide uno, rotto a metà, vicino alla porta. Portò il tutto fino ai gradini della veranda e si mise a sedere. Loro due se n'erano andati di sopra. Con passi leggeri, silenziosi, avevano salito le scale bianche, lasciandola di sotto. Denver prima forzò il filo che teneva chiuso il vasetto e poi il coperchio. Sotto c'era un panno e sotto ancora una sottile crosta di cera. Tolse via tutto e riuscì a far stare la marmellata sulla metà del piatto. Prese una pagnotta e grattò via la parte bruciacchiata. L'aprì e dall'interno, bianco e soffice, si sprigionarono spirali di fumo. Sentiva la mancanza dei suoi fratelli. Buglar e Howard dovevano avere ora 22 e 23 anni. Anche se nei momenti di calma erano gentili con lei e le lasciavano tutto il letto dalla parte della testiera, si ricordava di com'era stato un tempo. Il piacere di stare seduti vicinissimi sulle scale bianche, stretti l'uno all'altro, lei tra le ginocchia di Howard e di Buglar, mentre inventavano dei racconti del terrore con l'aria di chi voleva farla morire di paura una volta per tutte. E Baby Sachs, nel soggiorno, che le raccontava la sua vita. Di giorno odorava di corteccia e la notte di foglie. Dopo che i suoi fratelli erano scappati via, Denver non aveva più voluto dormire nella sua stanza. Ora sua madre era di sopra, con l'uomo che si era sbarazzato dell'unica compagnia che le restava. Denver intinse la punta del pane nella marmellata. Lo mangiò adagio, con meticolosità e grande pena. Thank you.